Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Buonasera da Sebastiano Barisoni e inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata speciale. Intanto un augurio di buon rientro a tutti quelli che sono in viaggio e stanno rientrando dalle vacanze o anche solo dal ponte dell'Epifania. Buona Epifania a chi sta lavorando e anche chiaramente a chi continuerà le sue vacanze. Dicevo, puntata particolare oggi perché è successo un fenomeno un po' strano in questi giorni. Molti di voi ci hanno scritto su WhatsApp, sulla pagina di Focus Economia, sul sito di 24, SMS, chiedendo di poter riascoltare, perché in alcuni casi non riuscivano o non avevano dimestichezza con i podcast, una puntata che anche per la data molti di voi hanno perso. Mi riferisco al speciale che abbiamo dedicato, un po' come la copertina di Time, al 2016, a quello che potrebbe essere, secondo noi, perlomeno uno dei protagonisti del 2016, nel caso specifico la Germania. Molti di voi hanno chiesto di poter riascoltare, e allora abbiamo deciso, in una puntata appunto speciale, domani il Focus Economia sarà di nuovo sull'attualità della giornata, come ha fatto ieri, farvi riascoltare l'analisi, a mio avviso molto interessante, anche perché non si basa solo sulla cronaca quotidiana, settimanale, mensile, come facciamo nel programma, ma ha una visione un po' più alta. L'analisi che abbiamo compiuto da un lato con il professor Alberto Crali, che è germanista e che insegna oltre che a Milano, la Università Cattolica, anche in Germania, e un'altra conoscenza di Radio 24 di Focus Economia, Giulio Sapelli, che insegna storia dell'economia all'Università Statale di Milano. Abbiamo analizzato con loro i principali eventi che hanno caratterizzato il 2015 in Europa a livello mondiale, però, come anticipavo, con un focus, un approfondimento specifico sul caso tedesco. Ultima puntata dell'anno di Focus Economia, anche oggi parleremo non tanto della cronaca, ci mancherebbe, ma come facciamo sempre ogni anno, del tema o dei temi economici che hanno contraddistinto il 2015. È un po' la nostra copertina, per usare il linguaggio di Time. Qual è stato il protagonista, inteso come soggetto non solo fisico ma anche giuridico e politico, il protagonista economico del 2015? È facile dirlo, anche alla luce di quanto è successo. Il protagonista, la nostra copertina, la vince non Angela Merkel ma la Germania nel suo complesso, e mi riferisco sia ovviamente alla cancelliera ma anche al numero uno delle finanze e economia, ormai mitico Wolfgang Schäuble, il falco per antonomasia, e se vogliamo aggiungiamo anche la posizione della Bundesbank e quindi di Hans Weidmann. Germania protagonista non solo economica, perché nel raccontare questo 2015 e che ruolo ha avuto la Germania non sfugge a nessuno che potremmo dividerlo in tre fasi. La prima, diciamo, che va fino a luglio del 2015, con la Germania che è la capogruppo e soprattutto la capofila dei paesi che chiedono un atteggiamento molto molto duro nei confronti della Grecia, a costo, cosa poi è avvenuta, di rischiare che la Grecia esca dall'euro, e ricordiamo tutte le immagini dei bancomat e del blocco sui prelievi. E da lì appunto la Germania Cerbero, diciamo così, dell'Unione Europea, dell'area euro. Poi abbiamo dal luglio in poi, adesso vado un po' a spanne, dicevo, la Germania che con una mossa a sorpresa di Angela Merkel dice no, noi abbiamo il dovere di accogliere i migranti. Polemiche anche su questo, perché dice la Germania ha gioco facile, ha un tasso di natalità bassissimo e ha bisogno di forza lavoro, ma resta il punto politico che Angela Merkel ha messo a tacere. Era un periodo in cui osservavamo l'erigersi di fili spinati, di muri di filo spinato in Ungheria, gli scontri sulle politiche d'accoglienza, insomma, che ha dato un segnale forte, fortissimo, sul tipo di atteggiamento che doveva avere l'Europa. Il terzo aspetto riguarda proprio le ultime settimane e riguarda più l'Italia, e cioè una Germania che nel momento in cui scoppia una crisi bancaria in Italia per il modo in cui sono state salvate quelle quattro banche e le conseguenze che vi sono state per gli obbligazionisti subordinati, in un paese, l'Italia, che non ha mai chiesto un euro per salvare le sue banche, a differenza, e non ha mai messo un euro, vero, perché erano prestiti quelli dei Monti, dei Tremonti Bonds, poi ritornati, a differenza anche della Germania, che a suo tempo mise 240 miliardi quasi per salvare varie banche, poteva farlo allora, e l'Italia si sente rispondere no all'utilizzo del fondo di tutela dei depositi, fondo privato, quindi non aiuti di Stato, perché la Germania, e no a un'idea di un fondo, di una garanzia per in caso di prossimi fallimenti bancari. La spiego in maniera molto semplice, perché la Germania in primis non vuole condividere, o meglio che eventuali crisi bancarie vengano poi condivise anche da altri paesi, e lo scambio vivace, quindi anche insomma lo scontro per alcuni versi tra Angela Merkel e Renzi è appunto cronaca recente dell'ultimo vertice europeo, dove appunto Francia e Italia vogliono uno schema su depositi bancari e Angela Merkel dice no, ha paura che poi paghino altri stati per i fallimenti di alcune banche. Renzi, che le fa notare che l'Italia ha delle banche più solide di quelle tedesche, tra l'altro anche lo scontro con il commissario Hill, Jonathan Hill, sul tema proprio delle banche, dei depositi bancari. Un commissario Hill che a noi risulta, come abbiamo già detto, essere nel massimo autonomia, ma essere anche portatore di interessi, portatore di una visione, non è proprio una verginella neutra. C'è chi dice che addirittura lui è molto sensibile alle lobby bancarie del centro e nord Europa. Quindi tre Germanie, se vogliamo, e questo è il nostro taglio, e ne parleremo con due ospiti che adesso vado ad annunciare. Però visto che stiamo ripercorrendo l'anno, partiamo proprio da inizio 2015, dal momento forse anche più importante in assoluto dal punto di vista della politica economica, in cui Mario Draghi annuncia l'avvio di un programma di quantitative easing. Per la prima volta nell'area euro si vanno a stampare euro comprando titoli di Stato sulla scia di quello che ha fatto la Federal Reserve e la Bank of Japan e la Bank of England nel passato. Il programma prevede l'acquisto di titoli di Stato e societari per 80 miliardi di euro al mese, e Draghi annuncia che diventerà operativo dal marzo del 2015. La scadenza inizialmente era fissata a settembre 2016, adesso sappiamo che si va già verso il marzo 2017. Però ascoltiamo l'annuncio di Draghi, era il 22 gennaio di quest'anno. Based on a regular economic and monetary analysis. Sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lanciare un acquisto di asset che comprende anche quelli esistenti di titoli pubblici e privati. Secondo il programma, si tratta di acquisti mensili per 60 miliardi. Gli acquisti saranno portati avanti fino a settembre 2016. In ogni caso, il programma continuerà fino a che non vediamo un aggiustamento significativo del tasso di inflazione, ossia in linea con il nostro obiettivo di un'inflazione inferiore, ma vicino al 2% nel medio termine. A marzo 2015 inizierà l'acquisto di titoli europei di governi e istituzioni nel mercato secondario e saranno basati su un criterio di condivisione del rischio sulle quote delle banche centrali nel capitale della BCE. On the euro system, national central banks share in the ECB's capital key. Eh sì, è questo famoso QE, quantitative easing, il vero protagonista, oltre alla Germania per quello che ci riguarda, finanziario, diciamo, della leva finanziaria nel 2015. Faccio notare, con un salto che percorre l'intero anno, che lo scorso 3 dicembre lo stesso Draghi, visto che l'inflazione nell'area euro resta bassa, bassissima, in deflazione per molti paesi sui beni, se escludiamo i beni energetici, resta bassa, bassissima, e a segnalare una difficoltà dei consumi, con buona pace di Weidmann che continua a dire che è solo un problema di prezzo del petrolio. Mario Draghi il 3 dicembre ha annunciato, e quindi meno di un mese fa, ha annunciato che il QE, il quantitative easing, proseguirà fino al prossimo, appunto, anche nel 2017. Ma perché continuiamo a parlare del QE e del quantitative easing e di Draghi? Perché non sfugge a nessuno che proprio quando Draghi lo annunciò, l'abbiamo ascoltato poco fa, a gennaio, Weidmann, il presidente della Bundesbank, disse l'acquisto di titoli di Stato comporta rischi, la Germania si era sempre opposta a questa operazione. Tra l'altro non si è attenuata questa critica verso la BCE. Pochi giorni fa un reportage del Frankfurter Allgemeine Zeitung, basato su un rapporto dell'istituto demoscopico Handelsblatt, ha mostrato che in Germania vi è un calo di fiducia verso Draghi e sarebbero addirittura 52 i membri delle istituzioni tedesche che ritengono errata la politica attuata dalla banca centrale europea, il timore appunto che venga ammorbidito tutto. Però questo è anche l'anno in cui dall'altra parte dell'Atlantico l'equivalente di Draghi, Janet Yellen, proprio a dicembre, proprio due settimane fa, ha iniziato a rialzare i tassi di interesse dopo aver usato per dal 2009 al 2015 in maniera massiccia il quantitative easing, cioè si stampavano fino a 100 miliardi di dollari al mese in America. Però in America questo ha funzionato perché nel frattempo anche lo Stato centrale, il governo federale, aveva iniziato a fare una politica enorme di investimenti e quindi tu stampi moneta che viene assorbita dagli investimenti statali. Da noi invece c'è solo una gamba, stampi moneta ma gli investimenti dei paesi o dell'Unione Europea non sono ripartiti. C'è chi dice che proprio qui è la differenza tra un QE che può funzionare, quello americano, e un QE zoppo come quello europeo. Allora ascoltiamo, prima di dare la parola ai nostri due ospiti, anche la Janet Yellen lo scorso 16 dicembre, numero uno della Federal Reserve, che annuncia una decisione storica. Dal 2008 i tassi erano fermi, da Lehman Brothers erano fermi allo zero, ed era dal 2006 che l'America non dava un segnale di un rialzo dei tassi di interesse, cioè di un'economia che è completamente uscita dalla crisi più pesante mai attraversata dopo quella del 29. Good afternoon. Il Federal Open Market Committee ha deciso di alzare il target di riferimento dei tassi dei fondi federali di un quarto di punto percentuale, portandoli dallo 0,25% allo 0,50%. Questa azione segna la fine di una fase straordinaria durata 7 anni, fase durante la quale i tassi di interesse sono rimasti vicini allo zero per supportare la ripresa dell'economia dalla peggiore crisi finanziaria fin dalla Grande Depressione. È stato anche riconosciuto il considerevole progresso fatto per ripristinare il mercato del lavoro, la crescita dei redditi e per migliorare il disagio economico degli americani. L'azione riflette la fiducia della Federal Reserve nel progressivo rafforzarsi dell'economia. Carmina Burana annunciano l'arrivo anche il 31 di dicembre dell'uccellaccio Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano. Buonasera professore. Buonasera caro amico e buon anno per lei. Buon anno a tutti. Saluto anche il docente all'Università Tedesca di Wittenberg, Hal Wittenberg, pronuncio malissimo il tedesco quindi mi deve perdonare, Alberto Crali, germanista, ha già insegnato alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, insegnava lingua tedesca. Buonasera professor Crali. Buonasera. Allora, Sapelli, intanto se lei condivide tra virgolette la nostra copertina, non la Merkel ma la Germania, intesa come appunto politiche monetarie, scandalo Volkswagen, accoglienza dei migranti e poi scontro su come si salvano le banche, d'accordo con noi? Sì, sono d'accordo con lei che il problema di fondo è stato la difesa accanita e tenace dell'interesse nazionale tedesco, al quale la Merkel ha subordinato ogni sua posizione. Su quello su cui non sono profondamente d'accordo con lei è che si tratti di un problema Merkel separato da questa questione del neonazionalismo tedesco. Tutte le prese di posizione che in questo corso d'anno che lei ha descritto così bene, la Merkel ha assunto, altro non sono che una neomanifestazione di quella grande e potente forza storica che agisce in Europa oggi, che è l'emergere del neonazionalismo tedesco, di cui abbiamo appena visto in questo anno soltanto la punta. Il prossimo anno esso emergerà con inaudita forza, soprattutto in riferimento ai rapporti da tenere con la Russia, così come è stato annunciato in questi giorni proprio a Bruxelles, scavalcando qualsivoglia sanzione europea. quello che guida la Merkel, lo ripeto, non sono né l'ordoliberalismo, le teorie economiche dei suoi consiglieri economici, non sono neanche le sue visioni umanitarie, per cui ha fatto questa sparata veramente vergognosa, demagogica, gioco di specchi all'ultimo congresso della CDU, facendo piangere la gente, mentre poi con l'altra mano diceva che era disponibile a trattare sulle quote, a parlare con tutti, anche con Orban, e quindi ha fatto questa sceneggiata veramente che fa rabbrividire per la capacità demagogica. Ha sfidato la signora Le Pen sul suo terreno da questo punto di vista, però l'ha fatta da un côté umanitario e misericordioso. E naturalmente quest'anno si prepara l'ascesa del neonazionalismo tedesco, che nel 2016 dovrà, anche perché la situazione economica si aggrava sempre di più e nonostante quello che lei dica, Draghi ha completamente fallito il suo scopo, perché uno che fa quelle dichiarazioni e continua ad andare in giro non vergognandosi, francamente mi fa dire che se questa è la classe dirigente, se lui è l'unico dirigente e che presto lo vedremo Presidente della Repubblica in Europa, d'altra parte abbiamo avuto già degli esempi tipo lui, quando uno annuncia un obiettivo e non riesce a raggiungerlo e pervicacemente non capisce che quel Conti Divisi lì non serve assolutamente a niente, il Conti Divisi anglosassone della professoressa Yellen, che santi Dio è professoressa, mentre Draghi non lo è, ha mai scritto un becco di un beppe perché valga una pena in vita sua, benissimo, la professoressa Yellen sa benissimo che può fare questo aumento dei tassi perché non è sola, perché ha a fianco una potente forza che è lo Stato americano e della politica pubblica americana. Quindi sono due problemi incomparabili, questo a cui assistiamo, gli diamo il nome di Conti Divisi, ma altro non è che una politica spericolata, pericolosa, che favorisce le banche, salva le banche, fa fare immensi utili alle banche, crea enormi banche, bolle speculative, ma è tutt'affatto diverso da quello che sta capitando negli Stati Uniti, dove abbiamo un processo finanziario profondamente diverso da quello che sta capitando in Europa. La conseguenza è che negli Stati Uniti c'è stata una ripresa dell'inflazione e quindi dell'occupazione e quindi della crescita. Invece l'Europa, e questo lo vedremo il prossimo anno, sta sprofondando in una deflazione a guida tedesca, perché ciò che i tedeschi vogliono è bassi salari, bassi costi dei beni che loro devono usare, e naturalmente noi italiani siamo stretti in una morsa perché esportiamo quote ingentissime del nostro prodotto interno lordo in Germania. Naturalmente per far questo costringono tutta l'Europa a una politica di deflazione, di bassi salari, di basso mercato interno. Sperano di farcela, dato che sono in difficoltà anche loro e la crisi è arrivata anche da loro, sfondando le regole europee e superando le sanzioni con la Russia, la quale ne ha ben donde e ne ha ben bisogno. Naturalmente facendo questo c'è un piccolo problema, si scontrano soprattutto sui problemi del gas con le esigenze italiane, perché non possono dire di essere d'accordo con l'Europa che ha abolito il South Stream, perché bisognava aderire alle sanzioni imposte dagli americani contro la Russia, e poi però loro, che sono anche loro fautori della libertà dell'Ucraina eccetera, continuare a costruire il Nord Stream, cioè il gas che parte dal Mar Baltico, raddoppiarlo, fregarsene delle regole europee, assolutamente non gli importa nulla il surplus commerciale. Quindi ha fatto molto bene ad impostare la questione sulla questione tedesca, perché nel 2016 sarà. Si vedrà che questa Germania comincia a essere incompatibile con l'esistenza stessa e, da quello che si vede nel fianco sud della NATO, anche con la pace in Europa. Ha messo molta carne al fuoco il professor Sapelli, però intanto vorrei un primo commento dal professor Crali. In Germania, visto che lei lì insegna, c'è la consapevolezza che perlomeno nel percepito, non dico che sia tutto vero quello che dice Sapelli, però che nel percepito la Germania sta attuando una politica, non voglio dire egemonica, ma sicuramente di primus inter pares, direbbero i latini, oppure per usare Orwell, che tutti gli animali sono uguali in Europa, ma se non ricordo male era il maiale, ma alcuni sono più uguali degli altri, cioè che in realtà non esiste questa Europa fatta di pari, ma esistono dei dominanti. Questo viene percepito in Germania, cioè che almeno da fuori viene letta come una forma di neo, non dico imperialismo, ma di neo dominazione. Di neo dominazione. Beh, guardi, visto da qui, ciò che prevale in Germania è la paura. E quindi il timore, e questo è la lei sa che la paura tedesca nella storia ha creato dei mostri, cioè la paura tedesca. Di questo sono perfettamente consapevole, sono anche consapevole di questa che è la società più vecchia d'Europa, e quindi come tutte le società vecchie tende a essere conservatrici, per cui alla paura si aggiunge poi l'istinto di conservazione. Questo fa sì che si venga a creare quello che di fatto in effetti, io la vedo dal punto di vista strettamente anche universitario, un po' una sorta di colonialismo culturale. Perché? Perché si va a prendere i cervelli che sono nel resto d'Europa, e su questo c'è un programma specifico della conferenza dei ministri dell'istruzione dei Länder, per cui si va a insegnare direttamente la lingua direttamente nei paesi, e quindi si fanno prendere le teste migliori e li si convoglia poi dopo verso le università tedesche. Questo naturalmente verso i loro istituti, che ovviamente si sa sono delle ottime strutture efficienti, però i cervelli evidentemente bisogna trovarli dalle altre parti. Ora, questa è la forma migliore di importazione che in Germania si preferisce, perché è quella a costo zero, perché questa gente qua per la maggior parte o in parte è stata già educata a spese dei paesi di provenienza, e quindi come tale. Sì, però professor Cali, non ci sarebbe nulla di strano, la Gran Bretagna, Londra vive da sempre su questo, non è che la formazione delle classi soprattutto medie inglesi sia... Però il punto è questo, che noi qui abbiamo, lei va in giro per Berlino e trova delle metropolitane che sono fatiscenti, lei gira per Halle, gira per Wittenberg e trova delle case che sono cadenti e sono abbandonate. Allora la domanda che uno si fa, ma perché non ci sono degli investimenti per portare avanti queste strutture pubbliche qua? È perché invece si punta costantemente sul fatto che c'è un export, c'è un avanzo di export, che è quello, che bravo, ma è quello che chiediamo. Quest'anno raggiunge il 9% del prodotto interno lordo. Ora, e dove vanno a finire questi soldi qua? Ora qui ho davanti un resoconto, 240 miliardi di euro di capitale che dalla Germania poi dopo viene investita all'estero, mentre potrebbe benissimo essere investita appunto nel paese che l'ha generata. Ecco, professore, tra l'altro questo, come ricordava prima Seppelli, è previsto dal Trattato di Maastricht, che dice che tu non devi sforare il deficit oltre il 3%, ma allo stesso tempo non puoi avere anche un attivo di bilancio troppo alto, cioè non ci può essere un fratello che spende troppo, un cugino, e un cugino che risparmia troppo, perché sennò non sta assieme, sta a casa. Allora, giusto chiedere ai paesi di rientrare da deficit, ma la Germania, è stato chiesto con molta voce flebile, con molta timidezza, con molta reverenza, dai pseudo commissari europei, di iniziare a spendere, cioè non puoi mantenere questo, quello che lei ricordava, un surplus commerciale così alto. E tutti fanno notare che le autostrade non sono granché, lei diceva la metropolitana, cioè che la Germania ha tanto bisogno quanto l'Italia, paradossalmente, di investimenti strutturali. Questa è la prima parte della puntata che ci avete richiesto, perché appunto è andata in onda il 31 dicembre, molti di voi l'hanno persa. Nella seconda parte siamo arrivati invece ad analizzare ancora di più come Angela Merkel abbia cambiato la sua immagine, mi riferisco ai 500.000 profughi siriani, ma anche quella che sarà il 2016 per la Germania. Vi anticipo che secondo i nostri ospiti sarà un 2016 ancora più incentrato sul ruolo tedesco, alcuni dicono ruolo egemone, altri dicono no, la Germania fa solo i suoi interessi, altri dicono che, come ascoltate, ciò che è buono per la Germania è buono anche per l'Europa. Comunque questo sarà, secondo gli ospiti, il 2016. Prima però le informazioni sugli aggiornamenti di borsa, e dopodiché torniamo. Focus Economia. Di nuovo con Sebastiano Barisoni e questa puntata speciale di Focus Economia, speciale sia perché non si occupa della cronaca e dell'attualità stretta, ma di quello che potrebbe essere una tendenza del 2016, con una, speriamo, maggiore capacità analitica di medio e lungo termine, e dall'altro perché l'abbiamo già mandata in onda e realizzata il 31 dicembre e molti di voi ci hanno chiesto di poterla riascoltare. Non lo facciamo praticamente mai e oggi abbiamo voluto fare un'eccezione. Torniamo sul ruolo a questo punto non solo delle variabili, nella prima parte abbiamo affrontato anche il ruolo degli Stati Uniti, della Banca Centrale Europea di Mario Draghi, ma restiamo sulla Germania, riprendendo il ragionamento sul ruolo della Germania in Europa, e a partire da quello che è stato il punto di svolta nell'immagine della Germania e soprattutto di Angela Merkel, poi le valse la copertina del Time, l'annuncio appunto che il 7 settembre sarebbero stati accolti mezzo milione di profughi siriani alle frontiere tedesche. L'ho già detto la settimana scorsa, mi rallegro del fatto che la Germania sia divenuto un paese a cui la gente associa la parola speranza. È qualcosa di molto speciale se pensiamo alla nostra storia. Ciò mi commuove. Credo inoltre che la dinamica di quanto accaduto non rimarrà senza effetti. Dobbiamo tutti sostenerci l'un l'altro in questo genere di situazione. Ogni paese dell'Unione Europea lo sa bene. E questo che avete appena ascoltato era il famoso annuncio di Angela Merkel il 7 settembre, quando annunciò l'apertura delle frontiere tedesche ai profughi siriani. Verranno accolti 500.000 profughi all'anno con uno stanziamento iniziale di 6 miliardi di euro. In realtà dopo due mesi arriva il parziale cambio di rotta il 20 novembre. Professor Crali, l'ho interrotta per il metodo quando lei diceva c'è una consapevolezza ma soprattutto non c'è voglia di investire. Cosa fanno di questi soldi i tedeschi? Come detto, appunto, questi soldi che vengono di volta in volta accumulati poi dopo vengono messi in circolazione, ma all'estero. E questo è il punto, e non vengono investiti in Germania. E quindi senza benefici per gli europei, perché è chiaro che tu fai... Questo è il punto, e per di più anche con dei rischi, perché dal 2000 ad oggi, questo processo qua è andato avanti per molto tempo, e loro hanno accumulato anche una serie di perdite, perché ovviamente a seguito della crisi finanziaria. Quindi voglio dire, non è nemmeno razionalmente gestibile la cosa, è che fondamentalmente loro temono, è come, guardi, Angela Merkel ha detto così, quando gli hanno chiesto, dice, ma lei cosa, se dice Germania, cosa gli viene in mente? Lei ha risposto, finestre solide e ben isolate, e quindi necessariamente anche belle. Questo è il punto, ed è cioè il concetto è l'immagine che dà Angela Merkel, è quella della cosiddetta banalità del bene, e quindi come tale inoffensiva, mentre fondamentalmente c'è un grande equivoco di fondo. L'equivoco è questo, cioè che si cambia, che l'interesse della Germania corrisponde necessariamente all'interesse di tutta l'Europa, e questo è il punto su cui tutti i tedeschi convergono, perché ritengono che essendo loro i migliori necessariamente bisogna seguire il loro modello. Questa è una grande perversione, perché l'altra ipocrisia è quella di dire noi siamo i campioni dei diritti umani perché pigliamo tutti gli emigrati, quando invece lo sanno tutti che il problema prima degli immigrati, il problema fondamentale della Germania era questo, cioè che aveva una popolazione vecchia, declinante, e al tempo stesso invece aveva esigenze legate appunto al suo export di crescita, e quindi conseguentemente non riusciva a colmare questo gap. Il colpo di genio della signora Merkel è stato appunto questo, che ha detto benissimo, facciamoli entrare passando di colpo per la sì, persona che è per i diritti umani, e fregando il mestiere a Francia e Inghilterra, che invece devono fare i cattivi. Questo è stato dal punto di vista strettamente politico sicuramente un colpo da maestro. Ecco, però io posso dire una cosa su questo aspetto, esiste anche l'eterogenesi dei fini. A me non interessa se tu accolga gli immigranti perché hai in realtà bisogno di manodopera per le tue fabbriche, dove con una popolazione che invecchia rapidamente, o se tu lo faccia veramente per motivi umanitari. Il fatto sta che poi lo fai, io su questo sono più neutro. Altra cosa è quello che lei raccontava prima, perché sa, quando lei parla della banalità del bene, chi ha letto qualche libro forse ricorderà un libro di Hannah Arendt che si chiama La banalità del male, e adesso a me dispiace fare questo paragone, capito, però veniva, però no, a me veniva in me, e allora tremano i polsi, perché veniva in me, La banalità del male era un libro sulla banalità, diciamo, del nazismo, inteso come... Guardi, questo qua è il luogo comune comune qui che Angela Merkel, appunto con la sua azione di apertura delle frontiere, è riuscita in parte a smussare, tant'è che si è presa la copertina, perché vede, quello che dice lei è anche giusto, però rimane il fatto che se è così bisogna avere il coraggio di andare in pubblico e dire: guardate, noi abbiamo questo problema qua, ed è che abbiamo bisogno di 1 milione all'anno di lavoratori, quindi adesso in questo momento qua lo facciamo, e quindi lo facciamo perché abbiamo questo bisogno. Ho un po' le vene ai polsi che mi tremano, Sapelli. Perché? No, non deve farle tremare, perché dobbiamo tenere presente che siamo un sistema capitalistico che ha le sue contraddizioni interne. Oggi la maggiore contraddizione interna è che c'è uno scontro feroce nel blocco franco-tedesco e della Germania con tutti gli altri paesi, perché l'Unione Europea si è rivelata una costruzione incapace di assorbire le asimmetrie economico-sociali e naturalmente è diventata non un campo di condivisione di sovranità, ma un campo di sottrazione di sovranità. Ciò che la Germania sta facendo è proprio quello di usare la sua forza economica per sottrarre sovranità agli altri partner, e lo fa su tutti i campi, calpestando i regolamenti, come ha ricordato lei, dal punto di vista del commercio estero, lo fa soprattutto imponendo un restringimento del mercato interno, della domanda interna, anche nel suo stesso paese. Ma vede, vorrei dire al mio fantastico e fortunatissimo collega che vive e può mangiare quei bellissimi wurstel in quella nebbiolina così umida e triste che è quella tedesca, vorrei ricordargli però che quei miliardi hanno preso le ali delle banche di investimento tedesche, che sono adesso, come lei saprà molto bene, se si guarda sotto l'occhialino della Deutsche Bank, in una crisi irreversibile, perché sono pieni di asset tossici, molto più che le banche americane. Ma anche mentre le banche di investimento americane hanno fatto una riforma profonda, diciamo che esistono solo più due grandi banche di investimento nordamericane, tutte le altre stanno tornando a essere banche universali, sì, ma tra virgolette dove l'elemento speculativo è molto diminuito. Le banche tedesche continuano a drenare il risparmio tedesco per fare speculazione spericolatissima su tutti i mercati mondiali. Basta vedere Deutsche Bank, che in un paio d'anni ha cambiato 5-6 amministratori delegati. E quindi con una spregiudicatezza, con una violenza rispetto a tutto il resto del mondo e alle regole. In fondo, gli ascoltatori che hanno mandato i Twitter su Volkswagen non è che siano molto lontani dal vero. Il comportamento delle banche tedesche è qualcosa di veramente incomprensibile, che non rispetta nessuna regola di corporate governance. Quindi loro drenano anche il loro stesso risparmio. Però, ripeto, questo non fa parte di un'ideologia di dominio. Ho capito, non è che mi senta meglio se lei mi dice così, Sapelli, però... Se uno sa bene perché... Nel senso che, guardi, io vorrei ricordare a tutti quelli che sono cattivi. No, ho capito, li hanno disegnati così. Però, mi scusi, Sapelli, quando... Io ricordo benissimo, siccome già, insomma, avevo l'età della ragione, quando ci fu l'unificazione della Germania, al di là di quella battuta geniale, devo dire, di Andreotti, noi vogliamo così bene la Germania, penso che fosse di Andreotti, così bene la Germania che vogliamo averne due, ma quando ci fu l'unificazione il progetto fu questo, e cioè si disse: bene, tu ti unifichi, però entri in Europa in modo, perché la Germania unita faceva paura a Mitterrand, faceva paura a Andreotti, faceva paura alla Thatcher, insomma non è che erano persone che si erano formate, erano cresciute comunque nella seconda guerra mondiale e nel dopoguerra. L'Europa, la casa europea, permetterà che tu, che sei il fratello o cugino più forte, tendi a essere quello più forte e grosso, debba sottostare alle stesse regole di questa casa. Ecco perché ho paura. Vorrei arrivare all'ultimo punto su questo, ed è chi può fare un contrasto, che già lo evocavate sia lei, Sapelli, che Crali, perché è vero che sul tema delle banche tedesche abbiamo assistito all'ultimo scontro, diciamo, forse quello più forte, tra Renzi e la Merkel. Preambolo: avete visto com'è andata la vicenda delle quattro banche salvate. Il motivo per cui abbiamo dovuto salvarle così è perché l'Europa si è opposta, l'Unione Europea, all'utilizzo del fondo sui depositi, che è un fondo privato. Allora l'obiezione qual è? Dice: ma come? La Germania ha usato 238 miliardi per salvare le sue banche, la Francia 50, la Spagna 50, l'Austria 30, o anzi 18, l'Olanda 30. noi non abbiamo mai usato un euro e la volta che vogliamo usare dei soldi privati, non aiuti di Stato, ce lo bloccate come aiuti di Stato. E una Germania che si oppone a un utilizzo serio del fondo, come chiedono invece Francia e Italia. Tant'è che Renzi è arrivato a dire: le banche italiane sono più solide di quelle tedesche, e devo dire che tutto sommato forse ha ragione. E poi ha detto alla Merkel: non raccontarci che donate il sangue all'Unione Europea, nello scambio, diciamo, che c'è stato nell'ultimo consiglio. Io non attacco la Germania, non l'attaccherò mai. Ho detto, questo sì, lo ripeto, l'ho detto alla cancelliera Merkel oggi, che quando si tende a far credere che la Germania sia il donatore di sangue dell'Europa, agli occhi esterni non appare propriamente così. Allora, questo è l'ultimo scontro, cronaca recente. Dopo il traffico, nell'ultima parte del programma, vorrei capire sia da Giulio Sapelli che dal professor Crali chi può fare, diciamo, contrasto, chi può contenere questa tendenza che poi farebbe male agli stessi tedeschi, a mio avviso. Chi può contenere, mettiamola così, la Germania, non come economia, ma come voi ricordavate, diciamo, tendenza un po' egemonica, dopo il traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia edizione speciale, la nostra copertina dell'anno per richiamare anche quello che fa molto, in maniera molto più alta e forse anche seria. Time, la Germania, no, per noi non Angela Merkel ma la Germania, l'ultimo aspetto di questo anno in chiave, ripeto sempre prospettica poi sull'anno che è appena iniziato, mi riferisco allo scandalo, di settembre, 22 settembre, lo scandalo che poi ha travolto la Volkswagen e passa, è stato battezzato Dieselgate. Nel nostro gruppo oltre 600.000 persone lavorano per costruire le migliori macchine per i nostri clienti. Sarebbe sbagliato gettare discredito in modo generalizzato sul lavoro onesto di queste persone a causa degli errori commessi solo da alcuni. La nostra squadra semplicemente non lo merita. Ecco perché vi chiedo ancora fiducia. Andremo a fondo della questione. Vi do la mia parola che faremo tutto il possibile con la massima apertura e trasparenza. E questo era appunto Martin Winterkorn quando scoppiò, poi si dimise. Lo scandalo Dieselgate, scandalo Volkswagen ma anche Audi, era il 22 settembre di quest'anno, di ciò che resta di quest'anno. Allora, la domanda che avevo fatto al professor Sapelli, al professor non solo a Sapelli, perché chiaramente riguardava anche il professor Alberto Crali, è chi potrebbe arginare questa tentazione, chiamiamola così, di egemonia tedesca, ossia ciò che è bene per la Germania è bene anche per l'Europa. Aggiungo, visto che lo scontro sulle banche e sul sistema bancario europeo è recente, che non solo la Germania ha salvato, lo poteva fare con 240 miliardi di soldi pubblici, 234 le sue banche in difficoltà, ma ha anche rifiutato che la Banca Centrale Europea vigilasse sulle banche minori perché qualche problemuccio sulle casse di risparmio regionali con i Länder e i politici dentro, secondo me c'è, non si è opposta, solo le banche più grandi. E faccio anche notare che nell'operazione con la Grecia, di cui oggi abbiamo parlato pochissimo, niente, le banche tedesche dopo quelle francesi erano le più esposte verso la Grecia. Dopo l'intera operazione sulla Grecia sono esposte gli stati, tra cui anche l'Italia, ma le banche, tra cui sopra tutte quelle tedesche, non sono più esposte, quindi ha fatto comunque un favore alle sue banche. Allora, Crali, molti hanno visto nel Dieselgate un modo anche degli Stati Uniti per dire adesso Germania ci ha portato a livello di crisi europea per colpa della Grecia, di un paese che vale il 2% del PIL europeo, mentre avevamo da affrontare ISIS e altre amenità. Con la Russia è un atteggiamento ambiguo e ricordiamo anche il Nord Stream. Alcuni hanno detto, vedete, questa è la vendetta americana nei confronti della Germania, vai a colpire il primo produttore di auto al mondo, il simbolo dell'industria tedesca stessa. Lei è d'accordo e chi potrebbe essere l'argine? No, io non sono d'accordo, nel senso che può essere che sia anche questo, però lì fondamentalmente i tedeschi sono stati vittima di se stessi, perché questa è la perversione dell'essere primo della classe nel modo assoluto, porta, che è poi una perversione faustiana, porta necessariamente a perdere il senso del limite della realtà. Tutti sapevano che negli Stati Uniti sono particolarmente attenti a queste cose qua, che se potevano farla pagare l'avrebbero fatta pagare, ma ciò nonostante hanno insistito per, sapendo, pensando di poter, un senso di onnipotenza che li aveva appunto ormai attraversati, e quindi conseguentemente sono rimasti vittima di se stessi. Che poi riportata questa cosa qua in termini più generali è quello che ha sempre detto anche Helmut Kohl, che la Germania ha bisogno dell'Europa per salvarsi da se stessa. Questo è un punto fondamentale, perché la situazione del momento di adesso è che la forza politica della Germania nasce dalla debolezza degli altri, e stiamo parlando di forza politica, non economica. L'idea che voi state portando avanti, io sono d'accordissimo, è che tutto questo paradossalmente non è nemmeno nell'interesse della Germania, no, diventare così egemone, perché quando avrai una crisi saranno tutti quanti lì a aspettare che tu caschi, e perché non puoi, se disintegri l'Europa, disintegri anche il tuo mercato, e l'avversità nei confronti dei tedeschi aumenta. Sapelli, Crali dice però, guardate che questo è anche il problema, che non ci sono né mogli, né genitori, né amanti, né figli a dare dei consigli alla Germania, e quindi, cioè, a fare un po' di resistenza, al di là dell'ultima dialettica di tra Renzi e la Merkel, sì. E quindi diciamo la Germania continua a diventare ipertrofica, anche perché non incontra alcun ostacolo. Beh, dunque, innanzitutto io sono un po' precauto. La Germania, per fortuna, la Germania ha dei suoi anticorpi. Ha sempre reagito così, li ha espulsi. Non dimentichiamo che Heine, uno dei più grandi poeti tedeschi, è morto esiliato, ammalato, abbandonato a Parigi, quando è finita il grande sogno della rivoluzione del 1848 con la Lega di Francoforte. Oggi siamo un po' in una situazione di questo tipo. La Germania ha degli anticorpi interni, non dimentichiamo, è passato un anno, questo è un anno che ha segnato anche il passaggio ad un'altra vita di Helmut Schmidt, che è stato un grande tedesco, è vero, ed è sempre stato un grande oppositore di questo neonazionalismo, di cui anche Kohl così certamente è stato un oppositore, ma non certo con le basi culturali umanistiche che aveva un gigante come Schmidt, diciamo. Kohl è stato incontrato dalla storia. Schmidt era la storia, era la parte buona della Germania, la Germania che amiamo. Poi ci sono delle forze interne, non facciamo gli schizzinosi, da Die Linke a Alternative für Süddeutschland sono forze tutte molto diverse, ma che però si oppongono in modo diverso a questo modo egemonico. Naturalmente io preferisco quello di Die Linke, che è un po' come quello di Tsipras in Grecia, e non lo nascondo. Poi però bisogna fare in modo che sia la parte dell'Europa. Le rivoluzioni sono sempre cominciate in Francia e sono sempre finite, ahimè, sotto i cannoni e i talloni dei Juncker tedeschi, a cominciare dalla Comune di Parigi. La Francia deve ritrovare se stessa, l'Italia deve sbrigarsi, fare questo asse italo-francese, questo non vuol dire rompere coi tedeschi. Io ho apprezzato quello che ha detto Renzi, è una politica intelligente, noi non abbiamo nulla contro la Germania, noi sappiamo che solo una Germania cambiata, naturalmente questo però cosa implica? Beh, implica che si tenga duro sulla battaglia, ed è fondamentale tenere duro sulla battaglia nei confronti della modifica e remodulazione delle sanzioni sulla Russia, perché solo la Russia con un diverso rapporto con l'Europa e con gli Stati Uniti, perché l'Europa senza gli Stati Uniti e anche la Germania senza gli Stati Uniti non è nulla, ed è questo che i tedeschi stanno dimenticando. Vorrei introdurre questo elemento: i tedeschi non solo hanno uno spirito di dominio sull'Europa, ma credono anche di poter fare stand alone. Credono di poter fare da soli in un mondo in così tragico cambiamento senza gli Stati Uniti. Ecco, allora i tedeschi devono ricordarsi, come insegnava loro Bismarck, non bisogna avere nemici tanto ad Oriente quanto ad Occidente, da una parte sola e, se possibilmente, come ricordava Schmidt, da nessuna parte. Quindi chi può contrapporsi a questo? Ma la Russia, elementare, vuoto. La Russia ha tutto l'interesse a avere un buon rapporto con la Germania, in una Germania che è pacificamente, organicamente e non egemonicamente europea. Naturalmente la situazione è molto complicata, perché tu pensa come si squilibra tutta la faccenda quando gli inglesi andranno via dall'Europa, perché ormai mi pare che siano anni, sì, ecco, ci vorrà un paio d'anni di negoziazione. Vediamo se riesco a sintetizzare un pensiero molto articolato. Lei dice, attenzione, da un lato i grandi tedeschi sapevano benissimo, Schmidt era figlio anche lui di una guerra, sappiamo benissimo che la Germania ha bisogno di qualcuno che le dica come non esagerare, mettiamola così, come una persona brava, ognuno di noi ha qualche collega o conoscete molto bravo, però talmente bravo che tende a diventare eccessivo, eccedente, dominante, e si fa del male. E ci vuole qualcuno, o il tuo capo, ripeto, o qualcuno a te vicino, che ti dica adesso rallenta, attento, hai bisogno anche tu degli altri, nessuno in questo mondo vi riesce a vivere da solo, nessun uomo è un'isola, diceva John Donne, così anch'io, certo, mi metto al vostro livello, anche se mi impaurite molto, Crali e Sapelli, però faccio uno sforzo, sto facendo uno sforzo. Allora, ormai ho finito tutte le citazioni, per cui, a differenza vostra, però Sapelli dice, guardate che la Russia più che è un asse italo, e c'è una Francia che è completamente complice, anche Hollande, insomma, completamente allo sbando su che linea deve seguire. Una volta dà ragione all'Italia, però poi va a braccetto con la Germania per paura di non, che la grandeur venga diminuita se fai l'asse con l'Italia invece che con la Germania. Nessuno di voi due mi ha citato gli Stati Uniti. No, io sì. Tu, cioè, lei, Sapelli, ritiene che gli Stati Uniti siano un altro argine? Certamente, gli Stati Uniti sono... Per scusa, ci hanno messo addirittura Draghi, sostengono addirittura Renzi. Ma perché credi che Renzi faccia quelle... che abbia detto quelle cose, abbia aperto il fuoco contro la Merkel perché vuol continuare a rimanere al governo in Italia? Ma scusa, ma dove vivi, Barisoni? No, ma certo, questo sono d'accordo. Allora, ma dai. Da lì a dire che dietro ci sono gli Stati Uniti, va ma bene. Ma si capisce, dietro, io lo dico, dietro ci sono gli Stati Uniti che non vogliono una Germania deflazionista che li sta tirando giù mentre loro sono in ripresa. Gli americani hanno sempre fatto carte false, da mandare Timothy Geithner per mesi in Europa per imporre Draghi a testa della BCE, a quello che stanno facendo adesso in questo fine d'anno, proprio anche in questi giorni, per fare in modo che la Germania venga ridotta a più miti consigli. Che poi lo facciano a modo loro, un po' da ambriachi, no? Un po' non avendo più Kissinger che li guida, vanno a fare un po' come i ciechi di Bosch, no? Cioè vanno avanti a tentoni, però sanno benissimo che cosa vogliono. Vogliono che la Germania non faccia andare a piccola Europa, perché sennò per loro è una situazione difficilissima. Crali, ancora su chi potrebbe aiutare la Germania, non ostacolare la Germania, aiutare la Germania a non commettere passi falsi. È come avere un amico che tende a mangiare troppo e tu gli dici, attento, basta, rinuncia a questo, perché sennò poi ti fai del male da solo, oltre che far pagare un conto salato a tutti. Prego. Sì, guardi, qui sicuramente c'è l'America, sicuramente, da questo punto di vista qua, perfettamente ha ragione il professor Sapelli a dire che ha tutto l'interesse, perché vi sono dei diffusi risentimenti antitedeschi in Germania, soprattutto nella comunità ebraica. In America vuol dire, sì, certo. Esatto, perdona, in America, soprattutto nella comunità ebraica, per cui su questo non ci piove. Rimane il fatto che però il problema non si risolve certamente con gli Stati Uniti, questa è una cosa certa, il problema si risolve in Europa. Il problema si risolve in Europa nella misura in cui si riesce a creare un fronte credibile, perché questa è la parola chiave col quale si entra in Germania. Questa è una cosa che bisogna capire. E c'è una parola che dice tutto e si chiama Zuverlässigkeit, vuol dire attendibilità. Però rimane un altro aspetto, che è l'opinione pubblica tedesca non è da confondersi con gli interessi precisi e diretti dei grandi gruppi industriali tedeschi e finanziari. Perché c'è una pubblica opinione, c'è una società civile che è molto aperta, è disponibile, è intellettualmente vivace, e quindi se gli si pongono dei riferimenti, degli interlocutori che sono credibili e che a loro volta danno delle prospettive di integrazione europea che vadano al di là dello stress della difesa degli interessi nazionali stretti, ma che abbia invece una visione, questa opinione pubblica è in grado di sopportare il suo governo e quindi conseguentemente di agire in Germania. Il problema, se mi permette di finire, il problema vero dal punto di vista politico in Europa non è la Germania, è la Francia. E quindi lei e Sapelli siete assolutamente d'accordo, la debolezza francese fa dei danni alla Francia, all'Italia e anche a una Germania che diventa strabordante, debordante, la metto così, e quindi tende a ricoprire il ruolo egemonico in Europa. E così appunto i nostri due ospiti, l'ultimo che avete sentito era Alberto Crali e prima Giulio Sapelli. Chiudo questa puntata speciale come chiudiamo quella del 31 dicembre, citando Paul Deering: là dove c'è il pericolo c'è la salvezza, che fece tanto sorridere i due ospiti. Ricordo chiaramente che domani Focus Economia torna a occuparsi dei temi classici dell'attualità in orario tradizionale dalle 17 alle 18.30. E di nuovo auguro a tutti voi un buon rientro dalle vacanze, un buon proseguimento delle vacanze e un buon lavoro a chi le vacanze le ha già finite. Ci risentiamo domani.